carafa e mune scazzo, e pinta sto carafa e mune scazzo, e brigana cuzzuna che brigana cuzzuna che brigana cuzzuna ma bente boia, ma bente boia, ma bente boia, che brigana cuzzuna ma bente boia. Usir no mannaredda non è spazzo, usir no mannaredda non è spazzo, c'è bigo magherai, c'è bigo magherai, c'è bigo magherai, non è scorcezzo, non è scorcezzo, non è scorcezzo, c'è bigo magherai, non è scorcezzo. Na preoli e preoli e preola, amami bella e non mi abbandona. Na preoli e preoli e preola, amami bella e non mi abbandona. A cagale da mona pare tivi, a cagale da mona pare tivi, cassemeroni, cassemeroni, cassemeroni, giuri a Givornovo, a Givornovo, a Givornovo, cassemeroni, giuri a Givornovo. E na cuore di legno castasira, mo ci vegno castasira, giù finire delle porte giù stasire. Na cuore di legno castasira, mo ci vegno castasira, giù finire delle porte giù stasire. Di calivi, cavali di vesteggia di calivi, giommanti lacci, giommanti lacci, giommanti lacci, doma d'azza dovo, ma d'azza dovo, ma d'azza dovo, giommanti lacci, doma d'azza dovo. E na preoli e preoli e preola, amami bella e non mi abbandona. E na preoli e preoli e preola, amami bella e non mi abbandona. Navali lampadaria c'è stoia livi, navali lampadaria c'è stoia livi, c'è teme deli astro, c'è teme deli astro, c'è teme deli astro, morro di nuovo, morro di nuovo, morro di nuovo, c'è teme deli astro, morro di nuovo. E na preoli e preoli e preola, amami bella e non mi abbandona. E na preoli e preoli e preola, amami bella e non mi abbandona. Di nuovo della semena, a te l'iro di nuovo della semena, suscitto di cardia, suscitto di cardia, suscitto di cardia, c'è piatto iema, c'è piatto iema, c'è piatto iema, suscitto di cardia, c'è piatto iema. Da cuore di legno castasira, monci vegno castasira, giù finire delle porte giù stasire. Da cuore di legno castasira, monci vegno castasira, giù finire delle porte giù stasire. Cacciatori desti giardini, cacqua dentro non si vuole, cacqua dentro non si vuole, cacqua dentro non si vuole, più cacciare, più cacciare, più cacciare, qua dentro non si può più cacciare. Da cuore di legno castasira, mo ci vegno castasira, giù finire delle porte giù stasire. Da cuore di legno castasira, mo ci vegno castasira, giù finire delle porte giù stasire. L'alberica si fanno molti giardini, la cerdi non si fanno, calla cerdi non si fanno, calla cerdi non si fanno, più basunare, più basunare, più basunare, la cerdi non si fanno.